Capitolo 19. Hanun re degli Ammoniti fa oltraggio ai servi di David, mandati per consolarlo nella morte del padre. Davide lo assalisce, e lo vince insieme coi siri, che erano in suo aiuto. Or venne a morte Naas re degli Ammoniti, e gli succedette il suo figlio nel regno. E David disse, io userò cortesia verso Hanun figliuolo di Naas, perché suo padre mi fece dei favori. E David gli mandò ambasciatori a consolarlo sopra la morte del padre. Ma giunti che furon questi sulle terre degli Ammoniti, per consolare Hanun, i magnati degli Ammoniti dissero ad Hanun, tu forse ti credi, che per onorar la memoria del padre tuo mandi Davide a consolarti, e non rifletti, che questi suoi servi son venuti ad esplorare, e disamenare, e osservare il tuo paese. Hanun pertanto fece tosare, e radere i servi di David, e fece trinciare le loro robe dalle natiche sino a piedi, e gli licenziò. E quelli se ne andarono, e avendo fatta saper la cosa a Davide, mandò gente incontro ad essi, però che grande era lo sfregio, che aven sofferto, e ordinò loro di fermarsi in Gerico, persino tanto che crescesse loro la barba e allora tornassero. Ma gli Ammoniti riflettendo all'ingiuria fatta a Davide, tanto Hanun, come tutto il popolo, mandaron 1000 talenti d'argento per assoldare cocchi, e cavalli della Mesopotamia, e della Siria di Maascia, e di Soba. E misero insieme 32.000 cocchi, e il re di Maascia, con la sua gente. E questi giunti che furono, posero il campo di rimpetto a Medaba. Ed anche i figliuoli di Ammon ratinati dalle loro città, vennero per principiare la guerra. Le quali cose avendo intese David, mandò Joab con tutte le schiere dei più valorosi. E i figliuoli di Ammon si mossero, e si posero in ordine di battaglia presso la porta della città, e i re, che erano venuti a soccorrerli, si tennero separatamente nella campagna. Joab adunque comprendendo, come si volea combatterlo di fronte, e alle spalle, scelse gli uomini più valorosi di tutto Israele, e andò contro i siri. E del rimanente del popolo diede il comando ad Abisai suo fratello, e questi si mossero contro i figliuoli di Ammon, e disse, se i siri mi faran piegare, tu mi darai soccorso, e se i figliuoli di Ammon ti vincessero, sarò in tuo aiuto. Fatti animo, e combattiam virilmente per il nostro popolo, e per le città del nostro Dio, il Signore poi faccia quel che a lui piacerà. Allora Joab e la gente che era con lui si mossero per assalire i siri, e gli sbaragliarono. E i figliuoli di Ammon veggendo come i siri eran fuggiti, voltarono anch'essi le spalle ad Abisai fratello di Joab, ed entrarono nella città, e Joab se ne tornò a Gerusalemme. Ma i soriani veggendo come erano stati perdenti con Israele, spedirono essi, e fecero venire i soriani, che abitavan di là dal fiume. E Sofach capo delle schiere di Adarezer, era loro condottiere. Lo che avendo inteso Davide, raunò tutto Israele, e passò il Giordano, e ordinato l'esercito in faccia ad essi, li assalì, resistendo quelli dalla loro parte. Ma i soriani voltarono le spalle ad Israele, e David uccise 7.000 uomini dei cocchi, e 40.000 pedoni con Sofach capo dell'esercito. E i servi di Adarezer veggendo come erano stati superati da Israele, ricorsero a David, e si soggettarono a lui. E la Siria non volle più dare aiuti a figliuoli di Ammon. Note, i servi di Adarezer veggendo come erano stati superati da Israele, riamsero a David, ecco. Adarezer vinto da David, e divenuto suo tributario aveva ancora soggetti dei piccoli principi o regoli. Ma dopo questa vittoria riportata da Davide, quei principi si soggettarono al re d'Israele.